Sì, sì, posa man. Sì, a chi piace, a chi piace. Sì, chick posa. Sì, ok. Sì, 08 autoproduzioni. Sì, sì, sì, ok, la red su quelle sì, mani. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Mi piacciono gli orgasmi delle belle. Se la tipa ascoltasse sta canzone mi prenderebbe a sferle. Nelle piazze che son piene di ragazze scollate d'estate con i fard sulle guance, giornate tese, settimane ansiose. Se lei ritarda ad avere le sue cose, pose che facciamo mentre poi ci baciamo, ci spostiamo sul letto e non macchiamo il divano. Mo io sono posa, mi metto le manette, ma solo quelle rosa mentre le mordo la pelle. Sto studiando per diventare dottore, ma mi basta rimanere ginecologo amatore. Le tipe vogliono un francesino com'è, che non sono un parigino, ma qua c'ho la Tour Eiffel. E direi ai miei amici di finirla con la gancia, di spruzzare la panna alla tipa sulla pancia. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. È sempre un casino farlo la prima volta, ma beh ci prendi gusto e arriva la seconda. La terza sai com'è e vieni come un'onda, e preghi solo che il goldone non si rompa. Dici quella giusta, curve da star male. Poi scopri che si eccita se ti fai frustare. Dentro al locale fissi una con il tanga, ma poi la vedi andare via con la terza gamba. Movimento d'anca, lo sguardo arriva al cuore. Ti mostrano le chiome, quelle bionde e quelle more. Mi sa che porno ancora tu te li guardi. Io solo documentari ma con Elena Grimaldi. Giochi di sguardi, occhi che fanno scintille. E come le carte a volte scoppia, a volte il due di picche. Non mettere il dito nella piaga lo si dice, ma io ti assicuro che le ragazze piace. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. A me piace la fregna, fregna. A te piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Sulle mani chi piace la fregna, fregna. Ehi, che bella ragazza che è seduta qui. Posso sedermi? Ok. Cos'è? Posso offrirla da bere? Cos'è che vuole da bere? Cosa desidera? Un martini? Un vampiro? Boh. Niente? Ah. È un ballo qui nella pista? No, neanche quello. Sì, vabbè, puoi dirmelo subito che non ci stai. Tanto ne trovo mille come te. Come te, come te.